Giorno di Simone Spezia. Prosegue la protesta dei tassisti, quinto giorno di stop a Roma, oggi in macchine ferme anche a Napoli. Del Rio dice: domani al tavolo discuteremo di garanzie per lavoratori e cittadini. PD, il giorno della spaccatura. Rossi fa sapere che chi esce comunque sosterrà il governo. Nasce un'area con Orlando, Cuperlo e Damiano verso le primarie in maggio. Stadio della Roma, oggi Grillo dovrebbe incontrare Virginia Raggi. Pesa il no della soprintendenza all'abbattimento dell'ippodromo di Tor di Valle. Palme bruciate in Piazza Duomo, i teppisti sarebbero stati identificati dalle telecamere. Prosegue in città la polemica sugli alberi, come avete anche sentito poco fa con Gianluca Nicoletti. Esordio con polemica nel mondo della pallavolo. A Palmi entra in campo Tiffany, che prima era un uomo. Il coach dice: mi aspetto ricorsi. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Il 349-238-6666 è come sempre il numero per scriverci via SMS o via WhatsApp. Effetto Giorno @radio24.it invece è la nostra email. In apertura dunque ancora la protesta dei tassisti che non si ferma. Vediamo di fare un punto generale con la nostra Roberta Pellegatta. Ciao Roberta, buongiorno. Buongiorno, sì, non si ferma, anzi continua. Nelle principali città la protesta dei taxi contro l'emendamento al decreto mille proroghe, quanto pare bloccherà il servizio almeno fino a domani, quando ci sarà l'incontro ai taxisti con il ministro Graziano Del Rio, il quale oggi ha auspicato l'arrivo di una regolamentazione, ha detto che finalmente tolga provvisorietà alla situazione. A Milano i principali operatori radiotaxi spiegano che solo poche decine di macchine sono disponibili, quindi non possono garantire il servizio. Ferme anche le auto in stazione centrale, dove nella notte un tassista ha chiamato la polizia denunciando di aver subito un'aggressione ieri sera da parte di due colleghi che gli hanno rimproverato il fatto di essere in servizio, gli hanno staccato l'adesivo radio dal taxi invitandolo ad andarlo a riprendere in centrale dove c'è il presidio permanente dei taxisti. Sempre a Milano alle 4 della notte scorsa un conducente a noleggio è stato denunciato per minacce dopo aver puntato una pistola, che poi si è scoperto essere giocattolo, contro alcuni taxisti che gli avevano imbrattato l'auto di servizio con delle uova in piazza Luigi di Savoia. Il tutto mentre tra gli operatori della moda cresce la preoccupazione per settimana prossima, quando a Milano si aprirà la Fashion Week. E i taxisti sono fermi da oggi anche a Napoli. Hanno trasformato lo stato di agitazione proclamato nei giorni scorsi in un'assemblea spontanea e permanente proprio in attesa degli esiti della riunione di domani a Roma al Ministero dei Trasporti. E per il quinto giorno consecutivo il servizio taxi è fermo a Roma con i disagi, Simone, che possiamo immaginare. Allora, grazie Roberta Pellegatta. Dunque, lanci di uova, pistole giocattolo, aggressione e intimidazioni ad altri tassisti. In questo bel clima andiamo a sentire come sono le cose a Roma. Teresa Trillò si trova alla stazione Termini. Teresa, vai. Sì, ciao, buongiorno. Allora, qui siamo a Termini, non ci sono taxi davanti all'uscita del centrale della stazione. Prosegue la protesta, oggi è il sesto giorno di protesta perché è iniziata mercoledì a mezzogiorno. Qui davanti c'è un gruppo di tassisti che spiega quali sono le loro ragioni. Loro protestano contro l'abusivismo, contro la norma, dicono, inserita nel decreto mille proroghe, che di fatto non colpisce gli abusivi del settore. E la protesta dovrebbe proseguire anche domani, perché domani c'è l'incontro con il ministro del Rio al ministero, dove si discuterà proprio del problema che hanno paventato in questi giorni. E i tassisti dicono che anche domani si protesterà e ci darà un presidio sotto, ci dovrebbe essere un presidio sotto al ministero, e l'incontro è previsto per le 15. Al momento a Roma sono garantite solo le corse gratuite per disabili e per le categorie protette. Da Roma è tutto per il momento, vi restituisco la linea. E grazie, dunque, grazie all'aggiornamento anche di Teresa Trillò. Qualche ascoltatore via WhatsApp ironizza e dice: scommettiamo che per la Fashion Week torneranno a lavorare. Vediamo un po'. Lo chiediamo anche ai molti ascoltatori tassisti che abbiamo in linea, ditecelo se volete. Passiamo alle vicende del PD. Elisabetta Fiorito, buongiorno, ciao. Sì, buongiorno. Arriva la candidatura di Andrea Orlando per evitare la scissione. Il ministro della giustizia è pronto, se ciò impedisse una frattura incomprensibile, però poi precisa: se le forze politiche stanno insieme solo su un leader e non su un programma, la prima curva rischiano di ribaltarsi. Orlando è preoccupato perché la scissione non risolve e rafforza la destra, e nasce all'interno dei Dem l'area, appunto, con Orlando, Cooper e Damiano per rifondare del PD. Intanto il governatore della Toscana Enrico Rossi afferma che i fuoriusciti sosterranno il governo Gentiloni, si parla di una quarantina di deputati e di una ventina di senatori. Ieri, lo ricordiamo, la scissione durante l'assemblea Dem, Emiliano Rossi e Speranza hanno lasciato il PD perché Renzi, hanno detto, ha scelto la scissione, e stamattina Emiliano si è detto anche pronto a restituire la tessera. Domani la direzione dei Dem, che sancirà le dimissioni del segretario Matteo Renzi in vista del congresso, e secondo il timing di Renzi il congresso sarà prima delle amministrative in maggio per andare ad elezioni a settembre. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e ci sono da registrare le dichiarazioni che arrivano in questi minuti proprio da Beppe Grillo, dal leader del Movimento 5 Stelle, proprio sulla data delle elezioni. Gli italiani porteranno ancora pazienza, perché noi italiani siamo così, siamo persone per bene, ma tutto ha un limite, dice Grillo. Il limite è settembre, quando i parlamentari, dopo tutta questa farsa, si intascheranno finalmente la pensione. A quel punto la pazienza sarà esaurita. La pazienza degli italiani ha un limite, lasciatemi votare, dice Grillo, ribadendo che la posizione del Movimento 5 Stelle è per il voto a giugno. Lo stesso Grillo questo pomeriggio dovrebbe incontrare Virginia Raggi, si dovrebbe parlare dello stadio Il Servizio. C'è soprattutto il nodo del nuovo stadio della Roma al centro della trasferta di Beppe Grillo nella capitale. Un progetto che divide i 5 Stelle romani. A complicare la questione è arrivata anche la decisione della soprintendenza all'archeologia e alle belle arti di avviare l'iter per il vincolo dell'ippodromo di Tor di Valle, al posto del quale dovrebbe sorgere il nuovo impianto sportivo. Nel pomeriggio, al più tardi domattina, Grillo dovrebbe incontrare la sindaca Raggi per aiutarla a definire la posizione del Campidoglio in vista della conferenza dei servizi in programma il 3 marzo. La prima cittadina nel frattempo è al lavoro anche per trovare un nuovo assessore all'urbanistica dopo le dimissioni di Paolo Berdini. Entro questa settimana, poi, tra martedì e mercoledì, sullo stadio è atteso anche un nuovo incontro fra Comune, AS Roma e costruttori. Per l'amministrazione, al momento, le principali ipotesi in campo sembrano essere due: proseguire nelle trattative per arrivare ad un ridimensionamento delle cubature, oppure procedere all'annullamento dell'utilità pubblica prevista dalla delibera sullo stadio approvata dalla Giunta Marino. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E a proposito di questioni che hanno a che fare col paesaggio, veniamo alla vicenda delle palme di Piazza Duomo. Le immagini delle telecamere hanno immortalato poco dopo la mezzanotte i responsabili, ma resta il riserbo sui nomi degli autori dell'incendio appiccato nella notte tra sabato e domenica alle palme piantate in Piazza Duomo. Nei fotogrammi si vede un gruppo di ragazzi che si avvicina alle piante e poi fugge, poi divampa il rogo. Un gesto vile, lo ha definito l'assessore all'urbanistica Maran. Ma finirà che i milanesi si affezioneranno ancora di più alle piante. Abbiamo detto che la palma, il banano o le canne di bambù cinesi non ci azzeccano, ha ribadito invece il leader della Lega Salvini, ma il fuoco si usa per le grigliate d'estate in spiaggia. Per il governatore Maroni, invece, la Milano del buonsenso boccia le palme senza appello, ma ciò non giustifica il vandalismo dei soliti cretini. Katia Caramelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E andiamo adesso nelle zone colpite dal terremoto. È in visita il presidente dell'Europarlamento e naturalmente si parla anche di fondi. Sentiamo. Ieri Camerino e Tolentino, oggi Accumuli, Arquata, Matrice, Campotosto e Norcia. Prosegue la visita del presidente del Parlamento europeo per confermare il sostegno dell'Europa alle popolazioni colpite dal terremoto. Antonio Tajani ha confermato l'impegno economico per la ricostruzione e la disponibilità di oltre 2 miliardi di euro, di cui 1 miliardo del Fondo di Solidarietà, pronto nel giro di 2 o 3 mesi. Sono le imprese a dover ripartire il prima possibile, ha detto Tajani, sottolineando la necessità di ricostruire il tessuto economico di questi territori. Se non c'è lavoro non si può tornare alla normalità, ma non c'è solo l'impegno economico, ma anche quello di portare la questione nel dibattito parlamentare, ha detto Tajani annunciando che le celebrazioni per il 60° anniversario della firma del Trattato di Roma si terranno anche a Norcia, probabilmente il 24 marzo, un giorno prima di quelle organizzate dalla Presidenza del Consiglio nella capitale. A Norcia ci sarà anche il Premier Gentiloni. Tutto questo mentre la terra continua a tremare. Un terremoto di magnitudo 4 è stato avvertito questa notte nella provincia dell'Aquila. Non ci sono però, fortunatamente, danni a persone o a cose. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Spostiamoci all'estero adesso. Il segretario della difesa degli Stati Uniti Jim Mattis fa tappa a Baghdad durante il suo viaggio in Medio Oriente, che l'ha portato in precedenza ad Abu Dhabi e Doha. Il ministro americano in Iraq per parlare con le autorità locali di lotta allo Stato Islamico, questo proprio mentre le truppe dell'alleanza hanno lanciato un nuovo attacco su Mosul. Tocca al militare di carriera Jim Mattis ammorbidire l'effetto delle dichiarazioni del presidente Trump, che prima aveva inserito Baghdad nella lista dei 7 stati islamici a rischio sicurezza e poi aveva agitato ulteriormente le acque facendo dichiarazioni sull'opportunità di assumere il controllo del greggio iracheno. Mattis fa dunque quello che sarebbe stato inconcepibile in altre amministrazioni: smentisce il suo diretto superiore e rassicura gli iracheni, sia sul fatto che il loro petrolio non sarà toccato, sia per dire che l'ordine sui visti, sospeso dalla Corte, non è stato ripresentato. L'Iraq è dunque, nelle parole del ministro della difesa, un alleato prezioso in Medio Oriente, cosa di cui il presidente sembra dubitare, nonostante siano almeno 5.000 i soldati americani che proprio in queste ore affiancano l'esercito locale nella battaglia per Mosul. Mattis, atterrando a Baghdad, ha spiegato di voler raccogliere i dettagli dell'operazione, poiché ha ricordato che solo da chi opera sul terreno è possibile farsi un quadro corretto degli eventi. Gigi Donnelli, Radio 24, Sole 24 Ore. Permessi di soggiorno veri, ma ottenuti con documentazione falsa. È così che operava una rete di persone, tra cui molti italiani, che faceva capo ad un commercialista di Sesto San Giovanni, siamo poco fuori Milano. L'organizzazione, sgominata dalla polizia dal 2007 a oggi, ha guadagnato illecitamente oltre 3 milioni di euro. Adriano Palazzolo ha intervistato Angelo Re, dirigente del commissariato di Monza. L'organizzazione faceva capo a questo commercialista e nel suo studio lavoravano altri 3 italiani. Questi erano assolutamente consapevoli delle attività illecite che stavano commettendo e quindi nell'associazione a delinquere questi c'entrano a pieno titolo. Poi c'era una serie di soggetti, sia italiani che stranieri, che anche loro in modo associativo organizzavano per far ottenere questi contratti falsi. Quindi noi abbiamo contestato l'associazione a delinquere a 42 soggetti. Moltissimi extracomunitari, ma ci sono anche tanti italiani che si organizzavano per assumere fittiziamente qualcuno, creavano delle società ad hoc per poter assumere qualcuno. E poi naturalmente abbiamo 171 denunciati che sono i soggetti che hanno presentato documentazione falsa, sapendo che si trattava di documentazione falsa, per ottenere il permesso di soggiorno. Andiamo a parlare di arte, di una mostra che è stata presentata oggi, è quella di Keith Haring. Adriana Fracchia, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, buongiorno a te agli ascoltatori. Diceva Keith Haring: dipingo immagini che sono il risultato delle mie esplorazioni personali, lascio ad altri il compito di decifrarle, capirne i simbolismi e le implicazioni, o sono solo il tramite. E questo appunto Keith Haring, il grande artista americano a cui il Palazzo Reale da oggi fino al 18 giugno dedica una grandissima e bellissima mostra con 110 opere, molte di grandi dimensioni, alcune inedite mai esposte in Italia, provenienti da varie collezioni pubbliche, private americane, europee e asiatiche, anche in collaborazione con la Keith Haring Foundation. Una mostra dove i lavori di Keith Haring vengono messi in dialogo con le sue fonti di ispirazione, dall'archeologia classica alle arti precolombiane, dalle maschere del Pacifico alle creazioni dei nativi americani, fino ad arrivare ai maestri del Novecento come Pollock, Picasso o Klee. Ecco, come dice Gianni Mercurio, che è il curatore di questa mostra, curata peraltro da Milano Cultura e dal gruppo 24 Ore Cultura, questo grande artista aveva una concezione umanistica dell'arte e anche una visione antropocentrica. Vi ricordo i suoi omini senza volto, che sono un po' il simbolo di tutta l'umanità. Quindi questo grande appuntamento con l'arte ancora a Milano, a Palazzo Reale, fino al 18 giugno è tutto. E grazie dunque ad Adriana Fracchia. Passiamo al fine settimana sportivo e, come sempre, un appuntamento ormai tradizionale, quello con il nostro Dario Ricci del lunedì. Dario, ciao, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Simone. Allora, partirei dal calcio, no? Beh sì, da quello che, visto tanto per rimanere in tema, ha messo in mostra il campionato. Si è visto il talento di Gabigol, col suo primo gol italiano, chissà, magari il primo di una lunga serie, ma anche quello di un Deulofeu, che è sicuramente un colpo ben riuscito da Milan in questa fase di passaggio, no? Quella di ieri con la Fiorentina in casa probabilmente è stata l'ultima partita a San Siro del Milan targato Silvio Berlusconi, perché se i tempi del closing verranno rispettati, la prossima partita in casa Col Chievo sarà già la prima dell'era cinese. E poi c'è stata anche il ritorno da protagonista di Zdeněk Zeman a Pescara, ritrova... Una storia pazzesca. Infatti, quella, sì, il Pescara ritrova il suo profeta, ma insomma, personaggio che a volte sparisce, l'avevamo lasciato in Svizzera a Lugano, poi ritorna clamorosamente, torna a Pescara dopo che era stato anche accusato di tradimento. E tra l'altro con la quantità di gol che lo contraddistingue. Sì, cioè sì, un 5-0. Ce la sembra averli nello zaino, no? Sì. Tre default ce l'ha sempre, ho presi, ho fatti. In questo caso sono stati addirittura 5 contro un Genoa che credo che facendo così mette un po' in imbarazzo la sua storia. Sì, facendo così mette un po' in imbarazzo la sua storia, esonerato Juric, altra mossa imbarazzante da parte di un presidente Preziosi che ha smantellato la squadra, Rincon, Pavoletti, Ocampos sono andati via a gennaio, sì. Un Genoa che ha battuto la Juventus. Naturalmente vincono Napoli e Roma, ti voglio portare invece allo sci, perché possiamo forse tirare un bilancio che è un po' deprimente di questo mondiale. Sì, personalmente sono rimasto sorpreso perché siamo arrivati al Mondiale di St. Moritz che abbiamo chiuso con il solo bronzo conquistato da Sofia Goggia nel gigante femminile. Siamo arrivati dopo una stagione da 26 podi in Coppa del Mondo, quindi le premesse c'erano tutte. Però è anche vero che poi questo Mondiale è stata la cartina di tornasole di una squadra che è quella con l'età media più alta, 30 anni e 3 mesi se non sbaglio, e che fatica enormemente a trovare i giusti ricambi e che deve rimettere in discussione criteri di lavoro e di organizzazione. Insomma, forse un bronzo è sicuramente poco, ma forse anche i 26 podi ci hanno un po' illusi. Allora, grazie al nostro Dario Ricci, ovviamente di sport si tornerà a parlare a partire dalle 14 in tutti i convocati, ma ne parleremo per un caso particolare che già vi accennavamo nei titoli anche tra poco nel nostro giro per l'Italia, perché c'è qualche polemica è stata sollevata dall'esordio in Serie A2 di pallavolo nel Palmi di una giocatrice molto forte e che prima era un uomo. Il mister, il coach che sentiremo tra poco, già dice mi aspetto qualche ricordo. Però apriremo il nostro giro per l'Italia andando a Roma e occupandoci di questo benedetto stadio. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati delle proteste dei tassisti che stanno proseguendo, del Partito Democratico e della scissione dello Stadio della Roma, e ci arriveremo di nuovo tra un attimo, delle palme bruciate in Piazza Duomo e anche dell'inaugurazione di una mostra, la mostra di Keith Haring. Iniziamo il nostro giro per l'Italia, a questo punto iniziamo proprio dalla capitale, iniziamo da qua. Questo è il nuovo ippodromo di Tor di Valle a Roma, quello che ha sostituito il vecchio Villa Glory. È nella zona dell'Eur e per la sua inaugurazione ha avuto il battesimo del Tevere. Il fiume va in piena, la solita pompa nuova che fa dispetti, ed ecco una parte della pista allagata. Insomma, sta Monnamur vince sicuro. Non vedi questo? E vince sì che vince, oh, ma che te credi che io faccio l'oroscopo? Vabbè, è irresistibile usare febbre da cavallo per questa vicenda, un passaggio di febbre da cavallo, praticamente quasi interamente ambientato a Tor di Valle, l'ippodromo del trotto realizzato, o meglio, disegnato da Julio Lafuente, grande architetto spagnolo, poi trasferitosi in Italia, e finito nel 1959, nel giorno di Santo Stefano del 1959, ed è l'area nella quale dovrebbe sorgere lo Stadio della Roma. Il punto è che la soprintendenza nel frattempo ha annunciato un decreto di vincolo per il valore architettonico di quest'opera che crea un po' di problemi a chi vuole realizzare lo Stadio della Roma. Sottolinea tra l'altro Sergio Rizzo oggi sul Corriere della Sera, tra le altre cose, che qua c'è forse anche un tema di quanto ci ha messo la soprintendenza a muoversi su questo fronte, perché la chiusura dell'ippodromo di Tor di Valle risale al 2013, che il vincolo arrivi proprio in questo momento non è un dettaglio insignificante, dopo che c'è gente che ci ha messo su dei progetti. Clara Lafuente è un architetto dello studio Lafuente ed è la figlia di Julio Lafuente, la persona che progettò appunto questo ippodromo. Buongiorno e benvenuta e grazie per aver accettato il nostro invito. Buongiorno. La sua posizione l'abbiamo trovata interessante, perché lei dice questo, ovviamente dice è un bene che sia tutelata quest'opera realizzata da mio padre, che tra l'altro è un'opera architettonica importante, ricordiamolo, cioè non stiamo parlando di un'opera qualsiasi. Dall'altra parte però le due cose, dice lei, sono compatibili. Sì, direi proprio di sì. Diciamo, da tempo viene chiesta una modifica sostanziale del plano volumetrico, cioè dell'impostazione dei volumi su questo terreno, che potrebbe permettere la convivenza delle due strutture, anzi le tribune potrebbero essere anche funzionali, diciamo, all'uso sportivo, attraverso questa proposta delle tribune per i campi di allenamento che verranno realizzati. Cioè là davanti si potrebbero fare i campi di allenamento, dice lei, e appunto non c'è necessità di buttare giù le tribune. Non c'è necessità di buttare giù le tribune, diciamo, sembrerebbe che sinora è stata data una gerarchia, una priorità più, diciamo, alla struttura commerciale delle torri rispetto all'importanza e al posizionamento dello stadio. Forse un riposizionamento dei vari elementi presenti sul terreno potrebbe essere possibile, auspicabile, ritengo. Tra l'altro la soprintendenza porrebbe un vincolo anche sull'altezza di questi edifici, quindi sulla volumetria sviluppata in altezza, no? Perché la dico molto semplice, non sono un architetto, la dico molto semplice, brutalmente, sì. Di fatto l'ippodromo deve rimanere in parte scoperto, cioè deve essere visibile, questo mi sembra il concetto. Sì, deve essere visibile soprattutto dal fronte verso il Tevere, dove attualmente c'è il campo, diciamo, dell'ippodromo, che dovrebbe rimanere libero come visuale, ma dei campi di allenamento di calcio sono perfettamente compatibili con un campo visibile. È arrivata in ritardo la soprintendenza, secondo lei, Lafuente? Ma forse la soprintendenza ha aspettato fino all'ultimo che ci fosse una proposta sostanziale da parte dei proponenti. Noi già nel 2014 abbiamo fatto una raccolta di firme, indirizzato una petizione ad Ammeis è l'architetto dello stadio, perché il progetto fosse rivisto, e diciamo abbiamo risposte ne ha mai ricevute? No, nessuna risposta, né dall'architetto né dai costruttori su questo, né dai costruttori né dall'architetto, diciamo, si è ignorato l'esistenza di questo fantasma che era lì, che è sempre stato lì, lo si è volutamente ignorato. Quando si presentava le immagini dell'area si facevano vedere solo discariche e rovine, non si è neanche mai mostrato. Ora purtroppo lo si vede nelle sue condizioni peggiori. Nelle sue condizioni peggiori, certo. Perché sono state fatte delle superfettazioni, sono state tamponate le zone delle tribune. Insomma, certo, adesso non ha un bel aspetto. No, decisamente no. La ringrazio, grazie Clara Lafuente per essere stata con noi, architetto appunto dello studio Lafuente e figlia dell'uomo che progettò l'ippodromo di Tor di Valle. Pasqualino Giangrossi, buongiorno. Buongiorno. Noi ci spostiamo dunque nel nostro giro per l'Italia a Palmi, dove ieri è successo un evento sportivo particolare, no? Perché ha esordito nella vostra squadra, e siamo in Calabria appunto, lo ricordiamo, ha esordito nella vostra squadra una giocatrice, una squadra di pallavolo di A2, il Golem si chiama, no? Il nome della squadra, Golem, sì, Palmi. Golem Software Palmi, sì. Si chiama Tiffany, lei, sì. Solamente che prima era un uomo. E questa cosa ha suscitato qualche polemica, perché era un pallavolista maschio che adesso ha fatto il cambio di sesso e quindi è entrato in una squadra femminile. Come sta reagendo il mondo della pallavolo a questa cosa? Tra l'altro ha fatto una bellissima partita, quel che ho visto ieri, no? Sì, ha fatto un'ottima partita dal punto di vista tecnico, ma anche dal punto di vista dell'inserimento all'interno del nostro gruppo squadra e all'interno del nostro ambiente. L'ambiente pallavolistico sta reagendo in maniera piuttosto rumorosa, piuttosto forte, perché stanno sollevando dubbi di natura etica riguardo l'inserimento di Tiffany all'interno del mondo della pallavolo femminile. Tra l'altro Tiffany non è il primo caso a riguardo. L'anno scorso, sempre in Italia, c'era stato il caso di un'altra ragazza che aveva giocato in A2 e prima si chiamava, era un uomo di nascita. Quindi, È già successo nell'Olbia, se non sbaglio, no? Sì, una vicenda, sì, di questo genere. Sì. E lei ha detto che si aspetta ricorsi per questa storia. Ma probabilmente ci sarà da ridire al riguardo, e mi aspetto che insomma, in qualche modo si cerchi di mettere in difficoltà le istituzioni preposte riguardo riguardo questo tesseramento. In realtà noi abbiamo rispettato perfettamente le regole che permettono questa cosa. Tra l'altro c'è una delibera anche del Comitato Olimpico Internazionale, gennaio 2016, ha permesso la partecipazione di transgender alle Olimpiadi di Rio, quindi credo che stiamo parlando del nulla. Tiffany è una donna, ha diritto. Tra l'altro ha perso, mi scusi, tra l'altro ha perso, diceva, il 60% della sua forza. Beh, lei così, io parlando con lei, quando mi ha raccontato la sua storia, mi ha detto che quando era uomo saltava molto di più, tirava molto più forte, mi raccontava di più di 40 centimetri di salto persi rispetto a quelli che erano i suoi standard, ma mi raccontava anche di una storia di vita difficile. Certo. Dice: adesso ho bisogno di normalità, cerco normalità. Non è che sono scelte che uno fa a correre. A parte che non sono scelte, però diciamo così, poi nel momento nel quale avviene e uno scopre queste cose, non è sicuramente facile. Ma è una delle tante assurdità che abbiamo ascoltato in questi giorni, cioè che adesso la paura è che qualunque uomo pallavolista possa decidere di cambiare sesso per giocare con le donne. Io penso che sia una sciocchezza spropositata. Ma anche il presidente della federazione, se non sbaglio, dice una roba di questo genere, no? Dice: qualcuno deve darci delle regole, delle norme precise, se questi casi si moltiplicassero, come se, no, con decine di pallavolisti. Sì, ho letto un trafiletto del presidente della Lega sulla Gazzetta dello Sport. Credo insomma che quello sia un atto dovuto di chiedere come comportarsi, chiarimenti, esatto. Però c'è da dire che già il fatto che la Federazione Italiana Pallavolo abbia avallato e abbia certificato il tesseramento della ragazza, e che la Federazione Internazionale lo abbia fatto, che la Federazione Brasiliana l'abbia fatto, e che ci sia l'avallo del Comitato Olimpico Internazionale, penso che siano più che sufficienti come regole. Poi assolutamente siamo in Italia, quindi magari c'è bisogno di ulteriori leggi, questo o forse Gian Grossi, e qua la saluto, più che ulteriori leggi, un po' di tempo. Qualche ascoltatore dice: se Bolt diventa femmina, con chi corre? E correrà con le donne, naturalmente, no? Grazie Pasqualino Gian Grossi. La domanda è: già da uomo con chi corre, perché vince sempre. Esatto, vince comunque. Grazie Pasqualino Gian Grossi per essere stato con noi. Ci fermiamo, abbiamo una pausa per il, come sempre, la borsa, scusate, ci ritroviamo subito dopo. Avremo solo un minutino per farvi sentire l'assessore alla Lombardia Gallera, che ci parla dei casi di meningite degli ultimi giorni. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezzi, i nostri titoli. Prosegue la protesta dei tassisti, sesto giorno di stop a Roma, oggi macchine ferme anche a Napoli, domani il tavolo col governo. PD, il giorno dopo la spaccatura nasce un'area con Orlando, Cuperlo e Damiano verso primarie in maggio. Stadio della Roma, oggi Grillo dovrebbe incontrare Virginia Raggi, pesa il no della sovrintendenza sull'abbattimento dell'ippodromo di Tor di Valle. La borsa. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Effetto giorno. 11 casi di meningite dall'inizio dell'anno a Milano, e non stiamo facendo allarmismo, lo dico agli ascoltatori che ci scrivono, perché in realtà questi casi sono perfettamente in linea con i numeri che ci sono normalmente. Di questo abbiamo parlato con l'assessore alla sanità lombardo Giulio Gallera, che ha deciso di avviare una sorta di indagine conoscitiva. Sentiamo. Non c'è un allarme meningite, assolutamente, la situazione è abbastanza costante, tuttavia ho pensato che fosse opportuno, visto che negli ultimi 20 giorni comunque abbiamo avuto 5 casi, poter in qualche modo riunire i massimi esperti anche per dare in questo caso, dopo un approfondimento, un messaggio tranquillizzante alla nostra popolazione e vedere se nell'ambito delle azioni già previste, come quella per esempio della vaccinazione degli adolescenti sul quadrivalente, quindi il CIDO, PVY, piuttosto che su altre misure che già abbiamo messo in campo come il copagamento, sia necessario dare un'accelerata o organizzare in maniera più serrata le attività. C'è un problema di tempi, no? Leggiamo per esempio dalle pagine locali del Corriere della Sera, in città come Lodi e Brescia bisogna attendere oltre 8 mesi per il vaccino. Beh, guardi, noi a dicembre abbiamo fatto qualcosa che quasi nessuno fa, cioè la possibilità di acquistare e farsi inoculare il vaccino nelle strutture pubbliche a dei costi fortemente ridotti. Sul mercato il vaccino C, tra l'acquisto del vaccino e l'inoculazione, costa circa 200 euro, nelle strutture pubbliche si paga 20 euro. Questo ha fatto sì che in un mese siamo arrivati a 66.000 prenotazioni in tutta la regione, quindi un numero inimmaginabile, di cui 13.000 solo nella città di Milano, e questo evidentemente sta mettendo a dura prova il nostro sistema. Stiamo anche qui ponendo qualche rimedio, come aumentando il numero dei giorni da destinare alle vaccinazioni e ingaggiando ulteriori medici. Adesso c'è Mario Platero, ci risentiamo tra un attimo per i saluti.